10 cose, ma cucina un sacco di roba, tutta roba di Langari, tacimi. Ma dove? Qua sotto. Che fusica. Anche niente che è giriata, capito? No, gente che fa schifo, ma io dico, ma perché cazzo la prendi questa roba? Se non rimane. La raga, la gente che ne ha bisogno, perché la compri, perché la prendi questa roba? Ma infatti è andato dopo, stavo giù che ribaldo, quella maghitetta mi ha disintegrato, ci ho preso una bevincina, ma un po' me l'ha calmato, ha tenuto mal di testa, gli occhiali, ragazzi, non vedete? Ma casino tu, un casino, la gente ci butta tutto, e vabbè, tanto non la pagani, se mi ripagano non diamo già piani da palla, è gratis, è così, cosa ci vuoi fare? Una cosettina però, ho un computer, devo prendere una password. Hai travagliato oggi, tanto sì. Oh, vera nuda, cosa vuol dire? Siamo disperati. Lavorato giusto così, me. Ho capito. Per carità. Cos'è questo rumore, sa? Non ti aveva mai detto. Quindi a gu, cosa è? Buona no, che era? Io dico sempre questo, dico, di dare la roba a chi ne ha bisogno. Ma saranno i chi sa niente così, mi va strano a me. O può assemmi. Cioè, abbiamo visto la latta, che roba da poco, roba gelato fatto da poco. Cioè, roba di quei cosi surgelate. Ma perché non hanno la gente che ne ha veramente necessità? La carità se non li deve dare a cani e porci, li deve dare veramente a gente che ne ha bisogno. Lo so. Cosa vuoi fare? Un casino, è un casino. Ma e chi va a farci un bacco? Ma niente, chi ne ha bisogno non fatta. Allora, che non è così. Guarda, chi si non ha bisogno? Allora, io grazie a Dio, la roba ce l'ho a mangiare a casa, non ho bisogno di andare a domandare l'emosina. Cioè, però dovendo andarci, me la prenderei per mangiare io, me la butta sai, c'è di lampazzina, perché c'è da buttare. Guarda di vino, Ma sicuramente so chi sa niente, so. Che si dà il cibo non buono, ma meglio una mondetta che mangia a casa d'oglia, che non si butta a dare un viago. Si usa mangia nemmeno il santuccio. Peggio, ma tu vieni qua a vedere che c'è l'ora di pranzo, se ci puoi stare. Ma se lo vedono loro veramente, ancora peggio, peggio ancora. Cioè, ma veramente, ma cosa godi di questa gente? Roba putrefatta. Un fiago, non si può stare, no? Io, cioè, quest'estate mi stavo incazzando forte. Perché, cioè, io entravo al lavoro. Da poi che c'ho video di tenere la porta aperta. Cioè, che cazzo da troppo si arraia nel gasadoglia, ragazzi. Cioè, me ne entra tutto quanto un fiago in casa. Ma insomma, ma quando mai? A me mi fate venire la botta dura, cioè mi stavo incazzando, mi vorrei munire un bacchetto e mangiare in occhio, aprirsi il caffè, cioè il... quanti cazzo si chiama? Non è il caffè, io no. Aprì la finestrella e mangiare in occhio sopra, perché cazzo non sopportavo. Dietro la porta c'era un fiago che non si poteva lasciare. Lucernaio. E ma se quest'anno è, chiamo una persona, mi posso dare uno di chissi canderotti. A veces la tenne ancora a bestia la Ianna. Gliel'ho promesso e mi sono stufato adesso. Dove va? Un casino, Cagliette. Già. a capodanno la dinia un poco troppo abbessa e ve la giubata sarà subito. C'è così qua, vado. Ehi, niente, niente, prende, faccio che fiaggo mi vava, mi sciato tra la vava e lo culo, Per carità, no, no, veramente, no, no, non si può stare così, io sono pulito qua, cioè, sono una persona pulita, cioè, non posso aprire la gianna di casa, ma con un profumo, non mi devo ci fare un profumo che io non uso, ma con chi sono rimasti nuda? Ma questa paura, ma ce n'è sotto o sopra? Allora, c'ero di fronte, dall'altra porta e poi su. Ora tipo sopra, sotto per chi su, non so così lo conosci, a Santona, da voi a Luciano, Luciano lo conosci, sotto va abitato, da voi a Simao Mao. Sì, lo conosco Luciano, io a Puglia. E lui abita nel mio palazzo. Luciano c'è in gamba. E quando non rompe i coglioni, il burretto sa che è il contatore. Certo. L'ultima volta mi sono incazzato. E a tu, non farti mai incazzarsi, no, la buccia ai mali tu, che sei anch'io incazzato. Lo so, non sono cose belle, però, alla fine, incazzarsi non fa bene. Ma, va bene con l'entrata. E vuol dire che sta scaldato. Chiama, mi pare che si intenghiari ai occhi. Ma non conosci nessuno tu ai giardini lì, in via Monte di Giamma, della questura? Ma sì, perché? Vabbè, ci si può fare anche serata in giacciaccia. Boh, dovresti chiedere a più tu. Adesso, ma mi va che tu sei sempre in Chivi, qualche giorno ci passo. Già c'è un amico su Facebook, ma preferisco passarci a parlarne a quattro occhi. Aspetta due secondi, tanto che hanno fermato i carabinieri alla macchina, aspetta. Ok. L'anima dai carabinieri, invece li sono messi dietro, no? Ti controllano l'attacco, c'è l'assicurazione. Guarina già l'assicurazione non gira, è senza bullo. La macchina, quella macchina è vecchia ma è a posto. Caffa, aspetta un attimino, due secondi mi stanno chiamando. Ok. Luca! Quindi ci sono posti da reddito a girare le balle. Io ci devo aspettare un nuovo di tag per vedere se la macchina è assicurata, capito? E poi l'hanno fermata, ha detto signora può dare e poi cortesia la patente. Ha dato la patente, fermati qualche minuto e poi no, gli hanno ridata e tutto a posto. Mette circolazione, io ma sta scherzando, lui Marina, ma ne hai bagare cose. Per il poco che la conosco mi sembra una persona seria. No, io sto pagando tutto, tassa modesta, non va nulla in darito, nulla, devo di nulla, paga tutto. Beh, guarda, il poco che la conosco mi sembra una persona seria proprio. Sto dicendo che paga tutto, non c'ha niente indietro. È la cosa più giusta che poteva fare. Come lo Pupuccio mi ha posto una contravvenzione, mi rimane. Andata a rimane. Chi? Un controllore. E va. A faccia il culo mette buono, Eddo e quant'altro commenta Eddo. Sa biglietto, vedi? Ma guarda che già ce l'avevo. Era che mi sono dimenticato di timbrarlo. Ma posso la multa. Ah, prendilo dopo, vende. L'ho detto, va che cazzo qua, non mi varrà bene a far rame batti 43 euro, gaggate. Cristo ci mi aveva educato un mio familiare da via contro la Grisciano in Chivi Trento. E che cosa è successo? Sono le tre. Se vai voglio un abbonamento. Cappa, ma dico cazzo, fammelo timbrare, che sta legge di merda che pone. Veramente. Ah, ma non mi è piaciuto come si è comportato, vabbè. Ti ripeto, raga, figli, tanto non i bago, già che se mi ne affutti. Se si ammazzi a Edu e tanto la TP, a Nagid poteva dire vabbè, timbralo, visto che ce li hai, fregatene. Invece non si può fare un dogo. Aspetta 2 secondi, stai ascoltando un audio. Avanti, chi è? Insomma le canzoni esatte. Ma no, chi si è fatta in Tempieso? Cioè in Gallurese, dai. Sono belle, a me sono belle. Ma a me non più di tanto. Kappa. Ha già visto che in chi va gli asini a Eddo, visto che dirigi tutto. Non ci più, allora, è tutto su, anche a Platamona, secondo Pittine. Cioè al Viaggio Grigio, là. Ma è vero? Sì, sì, certo. Io sono già fuori in carta, sto guardando. Comanda Radio Venere. No, Radio Venere di Valerio Bottiglione, anche lo conosco bene. Sì, vabbè, comanda, diciamo che lui fa la radio senza Sarese, là, ma so che è di Bottiglione, però... Beh, lui che la fa nella domenica. Ce la fa. Lo conosco bene per te fare, c'ero... un gaffo, siamo amiche. Via Granci, pari studimi. Sono andato un po' di volte io in diretta a Radio Vene, sì. Musica sassarese. Ho anche trasmesso. Ma va, è gando. Mi dibuchi a tu. Sei gando. Ma guarda, ora ti avviso. Ma sei amico di Beppe. E allora? Io non voglio dire se... Mi ha dato a travagliare. Cioè, praticamente volevo fare un qualcosa lì nei giardini, capito? Quanto la porti la roba tu? C'è ne cacche d'uno che mi aiuta a rubato. Che tanto, per rientri. Vabbè, già per rientro. Se ci hanno fatto un 50 euro, che c'è poco ma sicuro. Non lo so, quanto ci vuoi vorresti perché? Più di 100. Se arrighi niente, magari altri dati. Ma non te lo fa regalare niente. Tu lo sai perfettamente. Se fai la salsa, la marcia del reggaeton, cioè è logico che arrivi la niente. Se fai quei tre generi lì, vedi chi sa babà e consuma le volte. Tu prova a parlargli, vedi un po' da vicini, gli dici se ti fa fare qualche serata. Cappa, non hai compreso l'antifora che sono chi si cose che portano, chi si bada ne chi si cose che portano i dinà. Cioè ne vede niente a cudendo in chi va gli asini. Ah, beh, certo. Certo che sì. Tanto dovresti parlare con lui per un po' se ti può fare qualcosa. Io glielo chiedo. Io ho capito l'antifora a me. Se tu organizzi a magna tutti quanti che ci cose, ne vedi niente accudente. Ah, beh, certo. Certo che sì. Io provo a dirglielo, poi. Vedi a Eddo. Però ti posate vedere il karaoke, se fai karaoke, ecco, se fai karaoke, sì. Non c'ho il coso per il karaoke. Sì, già si può fare. No, non è compreso, no. Il karaoke serve a livello di bar, cioè di cose così. Lì se tu metti musica a ballare la gente ci viene. Non hai compreso? Non accudi in un bacchi. Tu lo sai, allora, io ho girato nelle discoteche, nelle cose. E quando facevano quella roba lì, tu lo sai che la gente che c'era. Beh, certo. La gente lo so che va tu, però ci sono anche quelle persone che vogliono cantare, capito? Poi se fai una cosa per ballare, tra Cuba. No, io voglio fare roba per ballare, voglio fare. Ragazzi, lo karaoke lasciamolo fare in certi posti. Io voglio fare una cosa per ballare, voglio fare, capito? Ballando dentro lì. Io sono convinto, metto il manifesto una settimana prima, tutti trovi il sabato sera ti accetto un bediente in chiave. Beh, certo che sì. Allora, dai subito, accendi. Dio mio, male, Dio. Adesso riesco a andare avanti, E' a tuo, un po' in forma. Capa, io faccio una proposta poi, ne avevi come ci sono quelli che in Chivi fai centro, cioè se organizzi una cosa del genere vedi chi si batta e chi ci goce. Poi guarda, una cosa che ho visto io, gente alla ricerca proprio di ballare queste cose qua, c'è una cosa paurosa. Certo che sì. Io non so come ti fare di là. Cioè, tu metti quelle cose lì, mi dico chi sei, cioè, se tu hai un locale, prima li fai mangiare bene, fa un menù, cosa ne so, 10 euro a persona, che cosa del genere. Mangiano bene, la pizza, quello che è, mangiano bene, poi a una certa ora ne gavi i tavolini e li metti a ballare e a consumare, bibite e tutto, ma lo sai di Dina che fai? Oh yeah! Con la birra li fai i soldi, ti consuma birra, ormai a fiumi. Di tutto? Non so. Anch'io, ero un po' così, volevo prendere qualche impiantino, ma mi ha detto, tu hai niente di in mezzo in giro, e io ho detto, no, non mi interessa farlo, perché c'è troppa gente di merda, capito? Io ho saputo storie raccontate da quelli che fanno karaoke, vedi, che sta dentro a un altro impianto l'ha rifasciato, arriva più casino, gli sono imbriagati, erano in un metro, un paese. Sta tutto iniziato, microfoni, ti hanno fatto volare il mixer, ma era in un bel, tu, un casino di tutte le strade. E infatti, come si dice, ha deciso di non fare più niente, cioè lì nei paesi, mio marito se lo fa qua a Sassari, là, Sassari. Serve la pulizia, mi sono a casa, dove c'è la televisione? Dimmelo. Ho detto, penso che ci fosse la pulizia qua vicino, dove c'è la televisione? Boh, non so. Comunque dico una cosa, Lu, il tuo amico doveva informarsi, nome e cognome doveva informarsi di queste belle persone qua, e mandare tutto un avvocato a farci pagare i danni, perché io l'avrei fatto. Dopo che l'avrebbero chiamato, io gli avrei chiamato le forze dell'ordine, i carabinieri, gli avrei detto di prendermi i nominativi e la roba me la ricomprano, come quando era. Ma non è uscito, era imbriaco, che ha fatto un casino a tu, va. E da me, che non gli hanno toccato le casse. È successo un casino. E purtroppo, sai cos'è? Che quando si fa karaoke, adesso mi pronto io, si pronta quello, mai, quando vedono sempre la stessa persona a cantare, mai che è amico di lei, e questa è una ragazza, no? Poi magari c'è quello là che fa un stravagante, che lui lo ha fatto cantare, che lui che si è fricato di Sempriedo, si incazzano e fanno casino, si mettono tutti assieme, tutti gli amici e fanno casino, chi fanno danno? Capa, non è così, io gli avrei detto ai brigadieri, gli avrei detto il nome e cognome che mi devono ripagare la roba, gli avrei mandato il conto a casa mia, quelli lì, non ci credi tu, abbiamo avuto l'avvocato, nome e cognome e tutti si mi hanno rifacciato la roba, cazzo il conto a casa gli avrei mandato, poi gli era passato i macchini. Oh via, microfoni 3-0-1. Quelli non li avrei portati, paghi su 4 qua, non ti preoccupare. È una cosa mia, come se tu, casa uno e si butta le casse tue, poi si butta le casse tue, cioè poi si butta le altre casse, magari andarti, si butta le tue, non lo puoi mai sapere. Non ti preoccupare che per il karaoke non gliel'avrei dati io un microfono a 300 euro. Non vanno bene quelli cinesi, si sentono benissimo. Vabbè, ma ci vuoi cantare, e tu vuoi sentire bene, devi avere anche la qualità. Cosa ne comprende, sotto canto una campana, so. Luca, cos'è a 300 euro mi dai? Quando fa una serata e dove c'è gente che canta bene, non è che dunque che c'è 4G intorno. Poi ti assicuro io che se tu li metti non c'è tanta differenza, non se ne abbizza nessuno, non ti preoccupare. Non mi sono ammortato, non vedi altro. Mamma! Oh, iaia. Carità, certo che la gente è deficiente proprio. Non comment, io dico sempre una cosa. Dico sempre una cosa, che certe cose non si fanno, perché noi tutti non lo vogliamo e non è giusto fare certe cose, io dico solo quello, perché io voglio bene a tutti, voglio bene, però chi ci gosi a me non mi piacciono, perché sono da vigliacchi sono. Finché uno scherza ci sta anche, ma esagerare non va più bene. Capa, lo so, lo so. No, non va bene niente, perché tutti ci abbiamo creato, ci abbiamo fatto il culo, ci abbiamo piazzato l'antenna con tanti sacrifici, cazzo, grazie ai noghi, cioè, ci abbiamo comprato le radio con tanti sacrifici, ci abbiamo fatto le cose belle e veni tu a girarmi le balle, ma stai scherzando, scusando la frase, non si fanno queste cose, punto, ci vuole educazione, ci vuole educazione, anche il rispetto per le persone che sono andate a lavorare dalla mattina alla sera per comprarsi un pezzo di radio che gli piace. Tu cosa puoi fare? C'è una malata a capo e boh. Io dico che ci vuole il rispetto, chiunque sia, non so come di nome io, chiunque sia ci vuole il rispetto del prossimo, di chi ha creato o chi ti vuole creare. Rispetto soprattutto, quello in primis. Chiappa. Perché se manca quello manca tutto. Sì, perché io ho sempre rispettato tutti e se c'è una cosa da fare, cioè lo faccio col cuore, lo faccio, però non è giusto che la gente si comporti in un certo modo. Io capisco che uno ce la può avere anche con qualcuno, però, cioè insomma, stai disturbando gli altri. Allora, a tutti stai disturbando, non gli altri, a tutti. Cappa. Ma i cognati, Biazzi? Ti stavo mandando un messaggio. Tanto faccio una merenda. Cappa, speriamo che mi potete travagliare, che stiamo con qualche soldo ce l'ho qua. Ah, se non lo guarda non ti paga. No, che mi fanno lavorare in quella cosa là. Ah, ma altro se voi non vendete bombe non sei pagato, sì. Io a quella cosa no. Ah, così. Pensavo non fossi pagato. Cappa, allora ti dico a me cugnato, buccami che serata in chi pagano i voti. Che lì c'hanno i piccioli, in chi vi pagano il burro di 100 euro. Lì sì, ti fai le fedi e te ne stai lì, ma ti fai pagare. Ma per sera ci vado, poi mi metto una domenica. E lì già si può fare, eh. Il problema è portati giù l'impianto. Ehi, se bisogna ordinare tutto si può fare. Oh lui. Ah, beh. No, va andato a col Paranci a te. Attento, dentro la a fare una serata. Vabbè, la patente è tua, ancora niente. Te l'ho detto. No, non mi ha detto niente. succedere? Cosa vuoi che sia successo secondo te? Che non è andato bene? Ci ritenterò. Ah, fai il dibattito. Colpa mia. Due volte? Vabbè. Già sta andando la cosa, dai. Non me la putti nuda. Prima era più semplice, adesso è un po' più difficilotto. Diciamo sempre, oh, non ci riuscirò mai a prendere, ma poi mi sono busto, ho studiato un po', però adesso è molto molto più difficile. Cappa, te l'avevo mandato il video con le nuove luci. E via. Bella, Vabbè. Ha il suo fascino. Lui dentro sacche, già c'è il suo fascino. Se uno vuole così, magari. Secondo me posso andare a lavorare con... Cioè, posso andare a lavorare con l'elemosina? No. Cappa. Cioè, non dico che faccio chissà cosa, però... Scalombiano, tu. Trucche, trucche, si dice, trucche, trucche. Cappa. E più là mi voglio comprare le professional, le auto professional, quelle più grosse, da 2000. Ah, capito. Quando c'è una possibilità te lo fai, ti conservi i soldi, fai come me, conservando. Sono arrivato a un bel gruzzoletto e a voi da un missilina, mi sono guardato un dentista che mi riesce di un impianto come contrappalle. È venuto un amico mio da Ferrari, sì, con sub e tutto mio, se l'ha tremato tutto. Ma voi le mi riesci tanto completo il viaggio, due belle casse, un bel mixerino, con effetti, un bel Yamaha, di quelli belli 8, 10 canali, 12 canali, quelli belli massicci. E poi tutto l'impianto, microfoni, teche ballacche. Ma purtroppo prima c'è la salute, poi si vedrà, anche me lo volevo prendere tu. Se capita mi faccio qualche serata compleanno, così, cresime, mi sarei fatto il mio giro. Cappa, guarda, se tu vuoi spendere i soldi bene, FBT. Due casse, un bel sub da 15, da 1200, tu sei a posto, con cavi, tutte cose, andate di chissà cosa, se lo fai dentro una sala si derrema tutto. No, ma non mi interessa a me il sub, due casse buone, che sono caribè, regolato bene. Interessa il sub, ma per il momento mi interessa, si vedrà più in là. Lu, lascia perdere a me che non mi riconosco queste cose, cioè lascia perdere, tu ti metti due case FBT, due belli stativi, un sub da 1200 watt, le case da 1000 watt l'una, e poi intendi i matracchi. Ma trema vero però me, ma trema tutto me. C'è un amico che ha due casse da 5000 mi sa. Lui canta però, non fa karaoke, canta proprio, è bravo, Massimo Milis, so se lo conosci. E va l'impianto alla fine del mondo. Già non credo via. Lì si intende un bel foce pure a me. La passione è passione. Io, a me mi piace molto, mi piace. Vorrei sognare di diventare qualcuno un giorno. Chissà se ci riuscirò a realizzare questo sogno. Beh, dovevo iniziare da più giovane, non adesso. Lo so, però volevo sempre realizzare un qualcosa. E vabbè, chi lo sa, che ho piano. Piano piano, se uno corre troppo non andava bene, è come per la patente, uguale, bisogna andare piano, così, ritenta tu, ma hai mollato o stai continuando? Sto continuando, ma c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, vai a mangiare i cazzo, i due mudo. come intendi che tedesco? Tedesche. Ma non la cazzo per farci prima. Allora, cos'è moga? Ui ragazzi, tu ci me l'ho martoriato, cazzo, martoriato, mamma mia. Poi sono andato, non dovevo mangiare niente, ho mangiato la pasta, ho mangiato la rullatina di pollo, poi ho mangiato le fragole, poi ho mangiato, cazzo, io diciamo come troppo pieno. Poi sono arrivato di là, mamma mia, c'è tutto il cazzo, tutto in alto. Ti sei tratta dove, là? Tratta dove? E vabbè, là. Siamo a buon punto, dai, piano piano. Ma qua ne ho, ne ho. Quest'estate mi sa che aria bassa. Comunque, dai, in autunno. Aria bassa, oh yeah. Vabbè, se no è San Teodoro, San Platamona, cosa vuoi ti dica? Esatto. Se non è San Teodoro, sarà Platamona. Se non la Maria di Sussu. Appunto. Ma hai visto la foto che ho pubblicato, che mare che c'era stamattina? No, non l'ho vista. Ho tempo, lo aspetto perché sta caricando. Io sono andato lì, una spiaggia di Proto Rotondo. Ma era fatta artificiale, era. Ogni impasto. Allora siamo andati a fare un tratto, vabbè, l'anno scorso, forse 2 anni fa. Lì Porto Cervo, cazzo eravamo? Che c'è quella roccia alta, come si chiama? C'è quella roccia, la montagna, là. Non me lo ricordo. No, vabbè, non mi ricordo manco io. Ah, lì c'è una spiaggia alla fine del mondo, la spiaggia come il Sentino, uguale, il mare, bello, il suo, uno spettacolo quel posto, Capa. Ma ci sono certe spiagge fatte artificialmente che pone i ribedi e pare in passo di cemento, perché è fatto sicuramente è fatto con sabbia da cava, neanche con sabbia di mare. Beh, ma da cagata. Ma io mi accorgevo di quello. Ma non mi piace a me. Tipo sei di Bucciù d'Ora, ti faccio un esempio, non mi piace. Questa, la sabbia è troppo grossa. Ma dici che sia fatta la Malai? Cosa? Dici che sia spiaggia rifatta? Secondo me sì. E se ne auguro che stai soli. E poi c'è un gabbo. C'è che tocco, fanno le live, sai che ci sono molte ragazze. No, non ci sono io, mi Sara è su TikTok. A me no, non mi piacciono queste cose, boh. Vabbè, ci sto per... mi gira Gugliuffa. Ecco, tanto non ci abbascia. Live. Aisha. La signora Zomba. Stato di 0, 2. Questa qua c'è, questa qua che questa è un bel carino questa ragazza, lasciamo da capa, mi non ti sciogliermi, andiamo bene, andiamo. Chi stava a sé? C'ha 100, aspetta, 110 spettatori addirittura. Cosa conto chissà? Pisci ti ha cotto? È una roba da macchico, da buoni su Facebook. E pizzato non sei più fede. L'ho fatta ieri. Ma ti piace, eh? Eia, e oggi ho chiamato a cosa? A Obelix. Ah, San Video. Cosa? A San Video. Ah, io chiamo sempre a loro. Io chiamo gli amici. Ma io sono ancora non ne prendo. Da un po'. Allora ce la facciamo noi, l'altra volta ce l'abbiamo mangiata a cocco. Via Rosello. Cocco de. Cocco brocco. Ma non è cocco, io mi ricordo quando ero un bambino io, era il più buono dei bizzi. E da Budiche, dove signor Giovanni Ponti, chi si siga a Riboni? Ah, ma prendi che sono romano, non si viene a nulla. Ma, cazzo, mi è arrivata ragazzi, con la gugliupa e sei mizzi. Che è la gugliupa? E siamo tra le gugliupa. Allora, ma mi ricordo la cosa della magnaglia. Ok, dai, c'è un cazzo di fava, sei mizzi, va. No, ma poi il sapore, non vuoi dire su Giovanni Putti che c'era questo sapore, belle croccanti, no, veramente buone, buone, poi la sta mozzarella che mettono loro adesso, non so, boh, fila troppo, c'è una tia che ha un laccio di botti in mari. La mozzarella non serve a niente, ma ti stavo dicendo, ma chi era quel tipo grosso? Il padrone, San Giovanni. Ma era un tipo robusto, era? No, robusto, era un bel piazzato, là. Io mi ricordo un tipo che va via la banza. No, no. Era ben piazzato, Antonio. Chi si chiama o la banza? No, lì c'è un romano. Faccia il bufalo. Graffa. Ma io non ci ho capito niente, ma dice un romano che era lo marito di Ghizza, della vigliola di Bottega. No, assolutamente. Ha uno che lavora lì. Allora, è sceso qua in Sardegna e poi l'ha preso questa qua a lavorare. Scappa, ha capito. Ma lui è morto, Bottega. Giornati. Io mi ammetto comunque quando rifazia il bici va via tutto un altro sapore. A voglia. Mi, i polli si difende, i polli sono buoni. Ma questi bolli, questi si asciutano il trucco. Cazzo, un perfetto ti affoghi, per carità, no, no. Ma io l'avevo trovato buono, la verità. Io pensavo che se la intendevano con la padrona, cioè che era il suo compagno, invece non è così. No, negativo. Ma ti vuoi dire che in Russia intendi? Ah sì. Aspetta. Se riesco a mettere le butte. Senti idea, mi interessi. Ma che te ne andò? E vanno. Buon russo, mi cazzo. Già lo so, anche il cane che abbiamo noi in deposito. C'è sidrome, già la fate che cosa. Dici che è la gatta, il setter. Comunque tornando al discorso della multa, tu te l'ha messa, sì. Ma la butta è su un assaggio. E quanti erano? In due erano. Che se... di castagneggia ne va, Ma sai quante ne metto? Ma nuvazza, forse per l'abbonamento, va, siete di guglioni. Allora, allora mi ci può passare in culo, e canto mi ne so. Cosa mi fate? Mattinati! Lo so, troppo un casino, troppo la scusa delle scuole. Come finiranno le scuole, ci saranno di meno, penso, Penso. Lo so, siamo di gente che... di vani di Napoli sigaretti, di Napoli tatuaggi, cazzo non parli di Napoli dram. Un giorno troppo un controllore, me l'ha detto, cazzo, cioè, telefono di ultima generazione, scarpe di marca, tutti i tatuaggi, e non fai il biglietto. Sì, ma io posso comprendere che sei quattro gaggaiti, cioè, ma una persona che virà pure in busciacca, tutta che si è dimenticato, ecco, perché la verità non l'ho fatta apposta. E cosa di buona rompimi di cazzo? Ah, che non ti innalde. C'è già dici niente, che sei dimenticato tu, sei dimenticato Guido, sei dimenticato Guidato, capito? Lo so, la prossima volta fallo. E ti compri i bagattini e sa multa, mi ha chiamato a passare in Ponte di Giamma. Niente. Plus di Ponte. Passa in mano all'ufficio delle entrate, mi. Mi sembra che passa in curo, Eddie, la multa, hai canto pinne, e cosa mi dica a fare nei mutande? Lo so, Anto, ma ti aumenta. Se mi avevo usato una multa, vabbè, io mi devo cagliare la multa, chi faccio multi, vabbè, le mie sono calate in prescrizione. Che fa? Allora se mangio il baga. Già glielo dico bene bene, datemi un lavoro come si deve per fare con le multe, così gli rispondo se mi chiamano. Vieni a putti assai, Eddie, ma te ne incasciano. Ma non incasciano di certo da me, perché finché non avrò lavoro come si deve, non i bago nulla, non pago. Perché non me ne affutti nulla. Tu, che vuoi, perché lavoro vorresti fare, Anto? Guarda, mamma che ti baciano in culo, mi ti baciano, 50 euro vado e me li mangio con Sara, e la porto a vivere, e di girarmi le... non voglio essere maleducato, mi... ma dico, che lavoro vorresti fare oltre il bombolaio? Guarda, lavoro, che mi bagano i burro, che lungamani di bagà. Ma sta a fare le domande, supermercato, magazziniere, che su chi è? Falle. Caffa. Allora, ma che vado, non si ammazzano tutti quanti. Cioè, lo sai, anche la prepotenza non posso sopportare, non posso sopportare la prepotenza che va nei tagliente. Lo so, tu, dove va? Pure tu avresti fatto la stessa cosa, essendo a posto loro. Sì, ma... cioè... perché a Tachita ma lascia stare, lascia stare, tanto lo sai come funziona il mondo. Il mondo lo sa come funziona, la cassa la niente in fase. Cioè fammela! Io dico, cioè, la prossima volta che ti ritrovo fammela, ma a me è successo, ma è tipo un affare dopo, perché c'è che li licenziano sono dalla ditta. Marco, ma passami in culo, ma cosa vuoi? Ma molla, mi aiuto. Loro alla fine stanno lavorando, non è che sono lì per lavorare. Se tu non fai il biglietto, non lo dico, ne di quell'altro, cosa devono fare? Loro stanno lavorando. Poi lì sto più, ricordati che nel tram è pieno di telecamere. No, per carità, ma lascia perdere. Io non mi bago perché non mi sento in dovere di pagare, poi portiamo i buoni. Vabbè, certo. Oh, vedi tu. Di dolce mi ne bigliano i bidocci, che non vaggio. Lo so. Se non tieni i bigliani, vai a tieni i bigliani. Ma no, ci avrò i soldi, gliela pago la cosa. Non vaggio giù lui, sono da pagare. Quello però non è colpa mia, l'altro. Vabbè, cosa c'è per te? E altre cose, altre... della macchina. Perché gli ho detto di pagarsene e non ha pagato. Ma vado in bagno io, vabbè, lasciamo perdere. Un casino. Non è facile, non è semplice. Ah, cioè, lavoro fisso, comincia a pagarmi tutte le cose. Ah, puoi fare così. Chiappa, cosa posso? Me ne capo io, da bocca, va, ma vai, vai. Vai, Buccarotti, vai. Buccarotti. Chiappa, la gente la deve smettere di fare le dittature. Ah, guarda, la salvo, quando è? 20, 25. Sono stata a fare una visita, mi sono preso il tram da via dei Mille. Come sentavo questa signora? Questa signora ha attivato il biglietto, però poverina si vedeva una persona grande, certo che sono stati i controllori. Questa signora praticamente aveva messo male il biglietto, non l'aveva timbrato, prima di muovere la multa, ha detto guarda, salite insieme a me. Infatti quei colleghi erano un po' lì se volevano fargli la multa o meno. La signora ha fatto quello che volete, mi volete fare la multa, il biglietto l'ho timbrato, poi se mi sono accorto ho sbagliato perché non vado bene, qua e là. E niente, poi alla fine, quando gli ho detto, siete insieme a me, gli ha preso il biglietto, gli ha timbrato, e la prossima volta stia più attenta. La cosa migliore a fare, la cosa più sensata. Altro bisogna farlo, inutile, tanto di buoni la multa. Poi cazzo fai brutti figuri, ma un biglietto, 2,30 euro, va. No, noi mi faccio l'abbonamento e sono tranquillo. piace a burro, ma a burro molte volte, uno se te lo dice in buona fede, ma la capisci, ma cosa di buono in chi piace, tanto pure c'è i problemi, mi. Io che l'ho lasciato perdere, perché se volevo sapevo dove abitava e poi erano problemi suoi, ma a giurare che da PG. E anche pure compromesso, ma tu lo lasci a perdere. Questo mi piglia il Bauguru, visto Raffaele Abis. Ragazzi. Cioè, c'è stata un'amicizia pochi giorni fa, e allora me la dovrà domandare, che sono t'ammazzi. Vabbè, uno che conosco, Non facciamo di niente, mi manda l'amicizia, me la ricancellare, me la dovrà domandare, lo bloccati. Nel blocco gli ho messi. La prossima lo blocco. Ah, io lo blocco subito. A chi usi piglia pure un baruguro? Non mi interessa più. Quando si comportano così, poi lo blocco, boh, finito. All'altra, l'altra li metto il blocco, la copertina li metto. E allora? C'è dei temiti, so, cazzo. Io so come bagliaccio dente. Oggi stavolta non è sonno, tu. Cosa? Salute, non hai sonno. Adesso mi vado a letto. Sono già a letto. Capa. E io mi vedo c'è una più abbeccio che vai cangio i nonghi. Anche qua si sta bene. Si sta bene. Oh, yeah. Ma c'è ancora parte di capo. Io che vedo sotto il tetto, mi lu. Quando parte nei lampi mi si addrizzano i piedi. L'altro giorno mi sono spaventato quando me l'ho visto, proprio la luce forte. Oggi si è accaduto canto vera, no, vi trento. Vabbè. Lì dovresti avere un bel medicato d'estate. Un soggiorno che picchia il sole, ui ui ui. La piccheria là fuori già ci sta bene. A mangiare giù all'aria. Tutta una questione di abitudine a me. Guarda, Maria ci sta non bene, no? Di più. Apre le porte in terrazzo, tira questa rietta, guarda che ci sono nuti e c'è anche freddo. D'estatemi. Oggi non è cucino. Ma durante la riga, quando scalda, non ci può stare lì, mamma mia. Ci sono 50 gradi. No, qua è sopportabile, ho detto che io c'ho il tetto qua sotto. Oh, già ci sono i parafulmini qua, c'ho le chiese vicino, meno male, se no mi ero preoccupato forte. Meglio che ci siano i parafulmini. Sennò quanti ne danno, ma danno però. Tu pensa che faccio i baracchini no, che la tenna in occhi sopra. Cioè. Se entra fa danno. Molto danno. Brucia quanto c'è. A Stefano, quello amico, abitavo sta bruciando radio, televisore, modem, cosa cazzo non l'ha bruciato, di tutto e di più. Ma a proposito, ma non ce l'ha sempre il baracchino Olbia? Lui era radioamatore. Certo che ce l'ha, ma è tramite le frequenze radioamatoriali. Sa quello che vi stavo vicino a casa di mia sorella. Boh, a Olbia abita. Eia. Di preciso non lo so. Mi sa che abita in zona Ruspini, o la zona lì. C'è le medicce vicino. No, le Ruspini. In Chivi, presa poco, sì. Prima di danno che ha fatto, roba di 5.000 euro, di 5.000 euro di danno gli ha fatto. Cappa. Un bel danno di base. Ma lui io mi ti gocco a chi c'è qui stracco. Dai, buonanotte, ce la risentiamo. Ciao, buonanotte anche a te, ciao. A domani, ciao. Ciao. E tutti quanti gli ascoltoni. Tutti gli ascoltoni. Vabbè, ci sarà qualcuno bravo, dai. Buonanotte a tutti.